Letture di Radio 24. Se i taxi spadroneggiano per le strade di New York, il sindaco Michael Bloomberg non tarda a prendere provvedimenti. Centinaia di studenti universitari sono stati arruolati come ispettori per controllare il comportamento dei taxisti della Grande Mela. Il risultato? Una pioggia di multe. In Italia i taxisti protestano contro la liberalizzazione delle licenze. A New York vengono multati dal sindaco Bloomberg perché lasciano i clienti a spasso. Che succede? Muoversi in auto nella Grande Mela è un incubo e i mezzi pubblici di notte e nei weekend riducono drasticamente le corse. Per gli spostamenti veloci non resta che il taxi. Ecco allora che i 14.000 guidatori di Yellow Cab spadroneggiano, decidendo chi portare, dove e quando. Andare nel Bronx la sera può essere impossibile. Raggiungere Brooklyn a mezzogiorno, un'impresa. Capita di aspettare anche un'ora prima che qualcuno ti tiri su. Il motivo? Alcune destinazioni non sono convenienti al guidatore, perché non vi è la certezza di trovare altri passeggeri da portare indietro. Eppure il regolamento della Taxi and Limousine Commission, la TLC, è chiaro. Il cliente ha il diritto di andare in qualsiasi zona della città. Allora la TLC, in accordo con Bloomberg, ha mandato per mesi degli ispettori a verificare e comminare multe da $500. Ma i taxisti, sgamati, hanno imparato presto a riconoscere gli ispettori e il numero di contravvenzioni è crollato. L'ultima trovata? Arruolare centinaia di studenti dei college, pagandoli $10 l'ora, per fingersi passeggeri. L'operazione ha già dato i suoi frutti. Da settembre gli studenti hanno preso 1.330 taxi in direzione di Queens, Brooklyn, Bronx e North Manhattan, vedendosi rifiutata la corsa nel 27% dei casi. Sono stati multati più di 360 taxisti, che alla terza infrazione si vedranno revocare la licenza. Ma mentre protestano per le multe troppo salate, il sindaco ha deciso di ritoccarle all'insù. Ora chi lascia il cliente a spasso pagherà $1.000. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Tommaso Clavarino «A New York, l'incubo dei taxisti sono gli studenti», dal numero 5, anno 2012, della rivista Anna.